Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, giovedì 6 ottobre del 2016. Ci ascoltate su queste frequenze, ma anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. Sull'home page ci ascolta la diretta. Siamo all'appuntamento con il cinema Visionari tutti i giovedì dalle 14 alle 15 e volendo anche un po' in anticipo, come in questo caso. Tutte le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio, colonna centrale trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Roberto Faenza, regista del film La verità sta in cielo, in uscita in sala oggi giovedì 6 ottobre. Roberto, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno, ciao a tutti. Come va? Da radio, bravi. Va bene? Vedremo, oggi che succede. Allora, premetto che purtroppo non ho avuto modo di vedere il film e quindi sarò uno spettatore che vuole saperne di più e a te chiedo. Bravo. Intanto raccontiamone per sommi capi la vicenda, di cosa si tratta, di cosa si parla. So di Emanuela Orlandi, ma in che termini, Roberto? Beh, la vicenda è nota. Il 22 certo. giugno dell'83 sparisce questa ragazza. Da allora si sono fatte 100.000 ipotesi. Quella che seguo io è, a mio avviso, la più credibile, attestata anche dalla magistratura nella sua ultima indagine, cioè che siano stati coinvolti il Vaticano in primis, la banda dei Testaccini, che non è la banda della Magliana, adesso poi spiego che cos'è la differenza. E nonostante l'archiviazione, cioè il non andare a processo, questo film induce a pensare che sia stato un grave errore. Tutto nasce da Roberto, questo progetto di film? Beh, nasce quando nel 2012 si è capito che la Procura della Repubblica di Roma avrebbe archiviato le indagini. Sì. Quindi direi che la giustizia non ha fatto giustizia, il cinema potrebbe farla. Allora, dicevi che ti sei basato soprattutto sui materiali della magistratura. Ci racconti un po', ecco, le fonti, quali sono stati e di cosa si è trattato? Beh, intanto diciamo che questo film ha avuto un'incubazione di circa 5 anni. Sì. E i miei maggiori appoggi sono stati appunto i procuratori, gli magistrati che hanno indagato per oltre 30 anni su questo caso e soprattutto la famiglia Orlandi, in primis Pietro Orlandi, che anche si batte lui da tantissimo per scoprire la verità, senza il quale non avrei scoperto delle cose inedite che ci sono nel film e che potrebbero a nostro avviso far riaprire il caso. Senti, più in generale, affrontando il caso, Roberto, qual è il disegno che hai tracciato in base a tutti gli elementi raccolti? Beh, abbiamo costruito una sceneggiatura che, come diceva Jean Vigo, tra l'altro la società che produce il mio film si chiama proprio Jean Vigo, come regista anarchico del passato francese. Diceva che un regista dovrebbe fare i film esprimendo un punto di vista documentato. Ecco, sì. La verità sta in cielo si poggia su solide basi documentali, anche brani di repertorio, e però esprime un punto di vista, quello che è la mia opinione su questo caso. Roberto, la verità occultata o comunque travisata oppure negata, ecco, quali sono le responsabilità in questo senso? Allora, dunque, tanto una piccola informazione utile. Sì. Che sempre i romanzi e televisione hanno sempre parlato di banda della Magliana. Ah, sì. E anche in questo caso viene ascritta la banda il sequestro di Emanuela. Allora, la banda della Magliana, come dice Massimo Carminati, l'imputato numero uno del processo Mafia Capitale, era formata da un gruppetto di straccioni e di accattoni. Non è quella che si crede, cioè i romanzi e televisione l'hanno, diciamo così, mitizzata, e secondo me lo hanno fatto proprio per coprire la vera banda, che è quella dei Testaccini, il cui capo sarebbe stato appunto Enrico De Pesi, detto Renatino. Perché questo? Perché parlare della Magliana è facile, perché non si fanno nomi e cognomi se non di quei poveri disgraziati che si sono sparati a vicenda, ma parlare dei Testaccini vuol dire parlare dei poteri veri, Intanto alcuni senatori, che sono quelli che facevano evadere dei carcerati dai tribunali, parlare dei politici che li hanno fiancheggiati, dei servizi segreti che ospitavano in casa loro il loro capo, e soprattutto parlare del Vaticano facendo nomi e cognomi. Ecco, questo film ha un grosso rischio, che siccome fa nomi e cognomi, io invito gli spettatori ad affrettarsi ad andarlo a vedere, perché non si sa mai cosa può succedere. Ecco, proprio in questo senso ti volevo chiedere, Roberto, se e quali tipo di difficoltà hai incontrato nella realizzazione. Beh, abbiamo incontrato molte difficoltà girando nei luoghi dove sono avvenute le cose. Per esempio, quando abbiamo girato a Via del Pellegrino alle spalle di Campo dei Fiori, la gente che ancora ricordava il boss che lì viene ammazzato ha creato dei problemi per girare. Uno, per esempio, un bottegaio che se l'è presa con noi, diceva: ma perché ce l'avete con De Pedies, che era una persona bravissima? Pensi che quando mi hanno rubato il motorino io mica andavo alla polizia per farmelo ritrovare, andavo da lui e lui me lo ritrovava in 24 ore. Ecco, questo è il clima. E poi quello che questo film induce a interrogarsi è il ruolo del Vaticano. Il Vaticano possiede un dossier, così pensano i magistrati, nel quale dossier ci sarebbe scritto a chiare lettere come e dove è finita Emanuela. Il Vaticano, da noi interpellato, nega che esiste questo dossier, mentre i magistrati ritengono che esista. Allora, io ho fatto un'ipotesi: supponiamo che non esista, anche se io credo che esista, sì. Ma se non esistesse sarebbe ancora più grave, perché dovrebbe dire che il Vaticano non ha indagato su una propria cittadina, perché Emanuela era ed è a tutt'oggi una cittadina vaticana. B, avere fatto come Ponzio Pilato, avere responsabilizzato la magistratura italiana, che non avrebbe dovuto indagare da sola, gettando a lei la palla dell'insuccesso, per cui la magistratura italiana ha fallito perché ha chiuso l'indagine senza andare oltre, senza andare a processo, e in questa maniera, come Ponzio Pilato, il Vaticano si è levato le mani. Senti, per quello che hai potuto constatare, Roberto, si è trattato di un regolamento di conti, di un ricatto? Qual è l'ipotesi più probabile? L'ipotesi più probabile che noi abbiamo seguito, che è quella della magistratura, nonostante abbia archiviato il caso, è che questo sequestro sia stato operato dai testaccini, ovvero dal loro boss Enrico De Pedis, per ricattare il Vaticano. Perché? Perché nella banca del Vaticano, questo non lo dico io, ormai è noto, veniva riciclato il denaro A della mafia di Pippo Calò, B delle varie bande romane. Questo denaro, che pare sommasse a circa 1.000 miliardi di lire all'epoca, era stato investito per aiutare la Polonia di Solidarność. A un certo punto questo denaro non torna indietro e queste persone, i malavitosi, cominciano a mettere in atto una serie di ricatti nei confronti del Vaticano. Emanuele è solo uno dei ricatti. Poi c'è la morte di Calvi, prima c'era stato quella di Sindona, c'è tutto un giro di scabrose ramificazioni che purtroppo perdurano sino ad oggi. Basta pensare che Flavio Carboni, che viene indicato tra gli autori della magistratura, viene indicato comunque l'uomo che ha portato Calvi a Londra, il giorno dopo l'hanno fatto fuori, lui sì. Dice non c'entro niente, però tanto l'ha portato lì. Allora, dicevo, Flavio Carboni tutt'oggi viene addirittura consultato dal padre di una nostra ministra per indicare gli amministratori per una banca. Ecco, questo è il clima a dire che Emanuela Orlandi, sparita nel 1983, tutt'oggi la sua scomparsa vive nell'attualità. Roberto, da oggi nelle sale in che modalità? Esce in 280 sale. 280 sale, grossi numeri. Speriamo in bene. Guarda, bisogna capire se il pubblico è interessato a una storia molto molto scabrosa, oppure se invece vuole andare a vedere solo le commedie. Nel primo caso speriamo in bene. Bene, Roberto, allora grazie. Ti ringrazio come sempre. Sempre Radio Onda Rossa, mi raccomando. Benissimo. Ciao, ciao. Un abbraccio, a presto. Ciao. Roberto. Roberto Faenza, regista del film La verità sta in cielo, in uscita in sala oggi giovedì 6 ottobre. Andrea Romeo di I Wonder Pictures sulla distribuzione del doc Lo and Behold Internet, il futuro è oggi di Werner Herzog, in uscita in sala oggi giovedì 6 ottobre. Andrea, ben ritrovato. A voi. Ti ho colto un è po'. Oggi, è proprio oggi. È proprio oggi. Ti ho colto un po' in contropiede, però ci perdonerai. Raccontaci un po', insomma, di questa nuova avventura di Herzog. Ma sì, il film merita un contropiede perché un grande maestro che si esercita, diciamo, con una storia recente e al contempo già storicizzata come quella della rete web in cui tutti passiamo gran parte della nostra vita, è poi l'occasione per parlare della nostra quotidianità, per parlare delle nuove fobie di un mondo che è già oggi, ma di una rivoluzione che abbiamo visto solo in parte. La cosa personalmente più affascinante del film di Herzog è il livello anche di ironia e di comicità che lui riesce a dare alla vicenda, è lo sguardo, ancora una volta, che il grande maestro del cinema europeo getta su una storia che è sicuramente di tecnologia, ma che è poi fatta di uomini, di passioni, di invenzioni e un po' anche di follia, diciamolo. Andrea, come in ogni caso del genere, si tratta di uno strumento, quello della rete, di cui si può fare uso e abuso. Ma sì, però sì, ovviamente il Venerdì di Repubblica ha titolato Maledetta Internet. A parte il genere femminile che non le avrei attribuito, Rolling Stone ha titolato sostanzialmente Benedetta Internet o Benedetto Internet. Il mondo che viviamo è sempre di più pervaso da quella che sono le categorie e le grandi i grandi cambiamenti che la rete ha reso possibili in tutto il nostro modo di vivere. Io credo che il film ci dia maggiore consapevolezza, ecco, questa è la chiave. Sì, la sì. Consapevolezza, quindi ogni tanto ci fa sorridere dei nostri paradossi, dei nostri eccessi, ogni tanto ci fa anche notare alcune cose a cui porre grande attenzione per il futuro, ma soprattutto ci fa guardare avanti, parla di intelligenza artificiale, di intelligenza collettiva e per un maestro del cinema di oltre 70 anni è veramente straordinario come freschezza, come sguardo in avanti rispetto a quello che internet è, ma che potrebbe e sicuramente sarà nei prossimi anni, nei prossimi decenni. Andrea, la suddivisione in capitoli? La suddivisione in capitoli è come sempre da una grande sistematicità al tutto, ed è poi in fondo un gioco. Non so cosa è piaciuto a te, perché è importante per te questo. No, vabbè, per spiegarlo anche a chi ci ascolta. Ti piace questo sì, aspetto sì, sì, della sì, suddivisione sì. in capitoli? Sì, sì. Ma sai, è un po' un modo di chiudere delle storie attorno a internet e di, come sempre, fa giocare anche con la narrazione, col ritmo della narrazione, sì. con un ritmo straordinario e più è oltre il documentario ormai. Ci porta dentro i laboratori più affascinanti del mondo a incontrare geni dell'informatica e delle reti che in qualche modo ci aggiornano e ci fanno. Sono certo che tutto quello che del film ci viene raccontato poi resterà elemento di riflessione e di condivisione con gli amici a cena per chissà quanto. Senti, forse uno degli aspetti più interessanti è la ricerca alle origini della rete, una creatura che poi è diventata quello che neanche appunto chi ne è stato all'origine avrebbe mai immaginato. Molto spesso le rivoluzioni così nascono un po' inconsapevolmente e se è vero che i primi, diciamo, pionieri del web nel 69 potevano solo immaginare che cosa sarebbe successo della loro invenzione, della loro creatura. È vero anche che oggi le istituzioni, la butto sul politico, hanno secondo me l'esigenza, l'obbligo e il mandato di interrogarsi, e di questa biografia noi abbiamo parlato molto in questi anni, cioè di interrogarsi su quali sono i diritti della cittadinanza digitale e quale anche il modo europeo di intendere la cittadinanza digitale, la possibilità di privacy, la possibilità di sicurezza e il match tra le due cose, che come il prossimo Snowden di Oliver Stone in sala dal 1° dicembre racconterà, come dire, è la chiave di tante riflessioni anche politiche sullo scacchiere internazionale. Sì, sì, sì. Andrea, che distribuzione avete pensato per il doc? Noi pensiamo sempre in grande, ma in realtà poi il film ha una bellissima distribuzione, parte in sale straordinarie di grande qualità. A Roma siamo al cinema Eden e al cinema Greenwich, così come anche negli UCI, che hanno voluto fortemente il film, e quindi ben due UCI nella Campina Natale, ma poi diversi UCI in giro per l'Italia, tutte le sale ovviamente sul profilo Facebook di I Wonder Pictures in tempo reale. Benissimo. Andrea, un abbraccio e alla prossima. Grazie a voi. Ciao. Andrea Romeo di I Wonder Pictures sulla distribuzione del documentario Lo and Behold the Internet, il futuro è oggi, di Werner Herzog, in uscita in sala oggi giovedì 6 ottobre. Con Stefano Campanoni, curatore della rassegna di documentari internazionale a Roma, al Palazzo delle Esposizioni dal 4 al 9 ottobre. Stefano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno a tutti, ciao. Allora, mi sembra un'iniziativa piena di interesse, nel senso uno sguardo internazionale in un luogo prestigioso, bello, al centro della città, a ingresso gratuito. Raccontaci. Beh, è un appuntamento per portare dei documentari, dei bei documentari, abbiamo l'ambizione di dirlo, al pubblico qua a Roma. In uno spazio che ha sempre dato attenzione a noi, alla nostra rassegna. Questo è il sesto anno in cui Palazzo delle Esposizioni ospita i documentari di internazionale, e quindi per noi è ormai obbligatorio farlo vedere al pubblico di Roma prima di andare in tour con questi film in giro per l'Italia. La scelta dei titoli, Stefano? La scelta dei titoli, come sempre, parte dalla volontà di fare un giro del mondo in otto film, affrontare luoghi, situazioni, conflitti che in alcuni casi sono conosciuti ma affrontati da una visuale diversa, oppure totalmente sconosciuti. In più quest'anno abbiamo deciso di allargare un po' lo sguardo anche a tematiche un pochino più leggere, come possono essere le vicende dei ragazzi coreani che cercano di entrare all'università, che apparentemente sembrano questioni minori ma che poi invece erano raccontate in un modo molto molto interessante, quindi abbiamo deciso di portarle nella rassegna. Senti, le aree geografiche che in questa edizione hanno destato maggiore interesse e sono più vivaci dal punto di vista proprio documentaristico? Guarda, ovviamente l'area dove era obbligatorio guardare come tematica era quella del Medio Oriente, dell'area dal Nord Africa per arrivare ovviamente fino al Kurdistan, alla Siria. Sì. Lì abbiamo tre titoli che abbiamo messo nell'edizione di quest'anno, appunto una che parla di conflitto in Siria, uno che parla della situazione in una cittadina israeliana dove hanno dei problemi di criminalità molto forte, e un altro che invece parla di un dottore che è diventato comico per criticare il regime in Egitto e che adesso deve vivere in esilio perché è stato fin troppo mordace rispetto al potere costituito. Stefano, come incontrate i titoli che poi inserite in rassegna? Guardandone molti, guardando molti film, andando per festival, cerchiamo sempre, per arrivare a questi 8, di considerare almeno un centinaio di titoli. E poi ovviamente i più interessanti arrivano in una rosa finale, poi qualcosa non lo possiamo portare perché è fuori dal nostro budget, oppure giustamente scelgono di andare in festival che chiedono l'anteprima italiana oppure l'anteprima europea. Diciamo che noi lavoriamo nelle intersezioni di quello che viene dimenticato o poco considerato da festival più grandi del nostro. Senti, le proiezioni sono anche occasione di incontro, dibattito o no? Sì, assolutamente, qui abbiamo la fortuna di avere l'introduzione per ognuno dei film in programmazione fino a domenica di uno dei giornalisti internazionale che ovviamente conosce meglio la materia trattata, quindi sempre prima del film ci sarà una introduzione che darà elementi di comprensione e di valutazione più precisi per il documentario che poi viene proiettato. Stefano, mi dicevi che poi sarete in tour, succede tutti gli anni, e poi che tappe percorrete? Guarda, sì, noi ormai abbiamo un'abitudine che è quella di non voler fermare questi documentari al Festival Internazionale che si è svolto a Ferrara lo scorso fine settimana, dove li abbiamo presentati in anteprima, e nemmeno qui a Roma, dove veniamo sempre al Palazzo delle Esposizioni. È da 6 anni che il tour è cresciuto. L'anno scorso ha toccato 30 città in giro per l'Italia, quest'anno speriamo di arrivare a 40, quindi fino a luglio i documentari saranno in giro. Tra l'altro ve lo dico, per chi non riuscisse a passare, dovremmo tornare a Roma tra qualche mese al Cinema de Tour, per cui li faremo di nuovo un passaggio. E poi, come detto, nord, sud, noi stiamo veramente cercando di coprire tutta l'Italia e siamo molto molto felici che per una volta dei film non rimangano confinati ai giorni e al luogo di un festival, ma diventino un motivo per vivere durante l'anno. È una proiezione serale? Sì, qui a Palazzo d'Esposizione avremo le proiezioni tutte le sere alle 21 fino a domenica. In più, sabato e domenica abbiamo anche una proiezione al pomeriggio alle 18:30. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più, Stefano? È molto semplice, sì, è molto semplice. Andate sul sito di Cineagenzia, che è appunto www.cineagenzia.it, lì trovate le tappe del tour attualmente in corso e per i prossimi mesi, trovate soprattutto tutte le informazioni sui titoli dei film e anche, se volete contattarci per proporci titoli, per dirci la vostra o per cercare di portare il tour anche in un'altra sede, noi siamo disponibili. Benissimo, Stefano, allora un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, ciao. Ciao. Stefano Campanoni, curatore della rassegna di documentari internazionale a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, dal 4 al 9 ottobre, soprattutto ad ingresso gratuito. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più sulla trasmissione e sulla scaletta di quest'oggi basta consultare il sito della radio, ondarossa.info, sull'home page, colonna centrale, trasmissioni Visionari, la pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Eccoci con Marina Ravera di Lucky Red sulla distribuzione del documentario Domani, in uscita in sala oggi, giovedì 6 ottobre. Marina, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille, ciao a tutti e grazie mille per averci invitato. Allora, un lavoro piuttosto interessante al quale abbiamo dedicato la copertina di questa settimana con una foto di scena. Racconti un po' in breve a chi ci ascolta, Marina, di cosa si tratta? Allora, si tratta di un documentario francese i cui registi sono Cyril Dion e Marie Laurent, sono magari in Italia sicuramente poco famosi, in Francia abbastanza noti. Mélanie Laurent la ricordiamo forse più come attrice in un film Bastardi senza gloria, ma in passato soprattutto in Francia si era già cimentata in progetti di lungometraggi e cortometraggi come regista. I registi ci hanno raccontato che dopo aver letto su una rivista scientifica un articolo che parlava di un'imminente, probabile imminente fine del mondo nel 2100, che insomma non è domani ma è imminente come data, hanno iniziato a interrogarsi, in quanto anche padre di famiglia, sulle possibili soluzioni, sul fatto che comunque possono già esistere dei modi per ostacolare e per cambiare le cose. E quindi hanno raccolto una troupe di ragazzi e hanno intrapreso questo viaggio in giro per circa 10 paesi in tutto il mondo. E sono riusciti a raccogliere diverse testimonianze di persone, di associazioni che già da tempo si stanno spendendo per la causa e che stanno cercando nel quotidiano di trovare soluzioni. Esistono in realtà tantissime realtà che già operano in questo senso, nel senso dell'ecosostenibilità. Insomma, le ricerche sono tante, sia dal punto di vista dell'economia, dell'agricoltura, dell'energia sostenibile. E il problema è l'informazione, che è un po' carente su questi temi, e soprattutto è anche un po' difficile magari riuscire a recepire nozioni su questi temi. Però il film è molto interessante perché appunto rispetto a tanti altri documentari che sono stati fatti sul tema propone delle soluzioni pratiche ed è anche il motivo per il quale ci interessava poi poterlo portare in Italia. E ci sono realtà più piccole ma anche più grandi, come ad esempio a Detroit, in cui un ex preside di una scuola ha fondato questa associazione che si chiama Downtown, facendo risollevare in qualche modo una città che era una città fondata sull'economia e sull'industria, ma sì, che dopo una profondissima crisi che ha visto proprio quasi dimezzare la popolazione della città, è riuscito su uno dei tetti di questi dei palazzi di Detroit a fondare questa piccola farm che riesce a produrre autonomamente gran parte di frutta e verdura a disposizione per tutti quanti i cittadini. Sì. La popolazione si era ridotta proprio di un terzo, se non sbaglio. Sì, è impressionante, numeri che fanno paura, però sono riusciti comunque a trovare la spinta in questo. Oppure anche in India c'è il sindaco di questo piccolo villaggio indiano che era ormai in preda alle droghe, comunque al traffico di droghe, ed era in mano alla delinquenza, dove proponendo una democrazia, un modello di democrazia partecipativa, è riuscita proprio a risollevare lo stato d'animo dell'intero villaggio, coinvolgendo quindi tutti quanti i cittadini a partecipare attivamente alla vita quotidiana. E minando proprio alle basi il sistema di caste. Assolutamente, c'è chi propone appunto il sorteggio come soluzione a tutto questo. C'è anche chi si è interrogato sul fatto che il petrolio sia totalmente onnipresente, del fatto che comunque le nostre economie a 360 gradi siano dipendenti da una risorsa che tutti sappiamo non è assolutamente eterna, quindi prima che finisca bisogna trovare delle alternative. Delle alternative ci sono anche alternative cercando di evitare che le lobby e il potere delle lobby continuino a impedire la crescita di qualunque tipo di cambiamento nel settore sia agricolo e sia energetico. Chiaramente queste sono tutte quante esempi in giro per il mondo, ma noi abbiamo avuto la possibilità anche di capire che in Italia ce ne sono diverse di realtà. Abbiamo fatto vedere il film a un po' di persone che sapevamo potessero essere interessate e abbiamo ricevuto il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, che per noi è una cosa molto molto importante. E ci sono associazioni come Greenpeace, Legambiente, Coldiretti, Slow Food Italia, che hanno visto il film e sono rimaste assolutamente contente, entusiaste, che lo hanno sposato e hanno partecipato tutte quante alla conferenza stampa che c'è stata la scorsa settimana del film, dove gli interventi sono stati molto interessanti, e ci siamo resi conto che un documentario del genere potesse incuriosire tantissimo anche le scuole con le quali noi lavoreremo tanto. Diciamo che l'uscita al cinema del film può essere, speriamo che possa essere, uno spunto per diverse persone, appunto, per interrogarsi e poi andare a approfondire, no, in maniera autonoma una serie di informazioni. Sì. Ma poi con le scuole pensiamo di fare un grande lavoro, perché i ragazzi, anche se sono molto distratti da tantissime cose, in realtà insomma sono anche molto interessati all'argomento. Sì. Oh, Marina, due sono gli aspetti che secondo me sono costitutivi e fondamentali e molto interessanti del documentario, e sono l'autonomia che riescono a raggiungere le comunità in giro per il mondo e anche l'interconnessione per cui poi riescono a creare rete tra di loro. Assolutamente, quello che viene promosso nel film è il fatto che ognuno di noi, chiaramente dovendo combattere poi con quelle che sono le dinamiche politiche e le regole che esistono in qualunque tipo di società, però è proprio dal basso che devono avvenire i cambiamenti. E il concetto è che se continuiamo a pensare che ciascuno di noi da solo, nel suo piccolo, non posso fare nulla, quello è proprio, cioè abbiamo assolutamente perso. O che comunque se pensiamo che, se lasciamo che quello rimanga solamente un pensiero e poi non sia seguito da un'azione, è come non far nulla. Cioè proprio il presidente di Greenpeace Italia che appunto ha detto è come avere una macchina senza ruote, cioè rimanere fermi. E anche sempre durante la conferenza stampa c'è stato l'intervento di un ragazzo che è stato molto molto carino, e lui insomma ha detto ma io non ho l'orto a casa e quindi no, è difficile produrre i propri pomodori, le proprie melanzane, però a Roma, è cosa che insomma magari non tutti sanno, c'è al mercato Trionfale, che è un mercato anche abbastanza importante della città, c'è una signora che al banco, adesso non ricordo il numero del banco, però lei ha questo banco, e se gli si portano lì le varie plastiche, cartone, alluminio, lei remunera chiaramente chi le porta materiali riciclabili e poi pensa autonomamente a portarli in queste aziende che non sono troppo lontane dalla città e che garantiscono il riciclo. Quindi questi sono piccoli esempi di come veramente ognuno possa far qualcosa senza poi nascondersi dietro a un dito dicendo che è tutto di fretta, non c'è tempo e sembra che poi si perda tutto in fumo. In realtà insomma si possono fare le cose anche in Italia. Allora Marina, da oggi in sala, in quante sale sarà il documentario? Ma il film uscirà circa in 30 copie, trovate sul sito del film che è www.domani-ilfilm.it, trovate tutte quante le informazioni, ci sono anche delle pagine dedicate a tutti quelli che sono stati i promotori e gli amici del film e che stanno sostenendo il film appunto come messaggio positivo per un futuro, e poi insomma speriamo che possa appunto essere visto anche da tantissimi studenti, perché gli studenti sono quelli che insomma che sono gli attori del domani, e a quanto pare i prossimi 20 anni saranno decisivi, quindi di tempo non ce n'è tantissimo, ne abbiamo ma non è tantissimo. Marina, un abbraccio e risentirci presto. Grazie a voi ragazzi, buona giornata. Marina Ravera di Lucky Red sulla distribuzione del documentario Domani, in uscita in sala da oggi, giovedì 6 ottobre. Allora, con noi Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, registi del film Mine, in uscita in sala oggi giovedì 6 ottobre. Si alterneranno alle risposte perché sono a un unico telefono. Intanto benvenuti a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao a tutti. Allora, cominciamo partendo proprio dal titolo, che mi ha fatto venire subito in mente il fatto che l'Italia aveva ottenuto il triste primato come paese produttore di mine anti-uomo, ad esempio. Sì, è vero, però anche se il nostro film non è così tanto politico, insomma, la mina è qualcosa che ferma il nostro personaggio, lo blocca, ma la sua guerra è più una guerra interiore, diciamo. E poi il titolo, se vuoi sapere questa curiosità, può essere anche pronunciato in inglese, mine, come aggettivo possessivo mio, eh. Senti, per chi ci ascolta, diciamo un po' la, per sommi capi, la vicenda narrata del vostro film. Sì, in pratica si tratta di due marine, due militari che stanno facendo una missione, però qualcosa va storto, sono costretti a scappare, entrano in un'area inesplorata, uno dei due salta in aria, l'altro mette un piede sulla mina e il film comincia. Quindi lui deve insomma, trovare un modo per sopravvivere sia alle difficoltà fisiche, quindi la fame, la sete, i crampi, e trovare un modo per chiamare i soccorsi, ma anche sopravvivere a se stesso, perché inizia a avere miraggi e rivivere la sua vita, e quindi scopriamo che si tratta non solo di un soldato bloccato su una mina, ma proprio di un uomo bloccato. Oh, come nasce l'impulso al film? Da dove viene questa idea? Beh, abbiamo avuto l'idea di queste immagini dell'uomo fermo col piede sinistro bloccato su una mina che può esplodere da un momento all'altro. Abbiamo cercato di costruirgli intorno una storia, e da subito era chiara la valenza metaforica di questa immagine, cioè il fatto che l'uomo bloccato potesse rappresentare, diciamo, in qualche modo tutti noi, tutte le volte che ci siamo bloccati nella vita, insomma. Ma infatti diciamo che è nata in un momento in cui per noi il cinema era un campo minato, cioè stavamo sviluppando da anni dei progetti che non partivano mai negli Stati Uniti e ci sentivamo bloccati, quindi forse questo ci ha anche fatto venire in testa, insomma, l'immagine di un uomo che alla fine eravamo noi e avevamo bisogno di sbloccarci, quindi tutto questo film è stato fatto praticamente per sbloccarci, è stato molto terapeutico. Mine per noi rappresenta davvero un passo avanti. Allora, da oggi nelle sale, in quante sale sarà? Inizia con 200 e se la gente ci vorrà bene, settimana prossima forse saranno di più. Bene. Allora, un abbraccio, un saluto, a risentirci alla prossima. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, grazie, ciao. Fabio Guaglione, Fabio Resinaro, registi del film Mine, in uscita in sala oggi giovedì 6 ottobre. Bene, siamo in collegamento con Valeria Moreschi, curatrice della rassegna Cinema Meravigli, sull'appuntamento Cartier-Bresson al cinema, al Forma Meravigli a Milano, oggi giovedì 6 ottobre. Valeria, ci sei? Buongiorno, sì, ci sono. Oh. Allora, intanto benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi di ospitarci in questa puntata. Mi interessava questo titolo che avete scelto, ma anche la rassegna di cinema che mettete in campo. Allora, ce ne certo. Parli un po', Valeria? Certo, Cinema Meraviglia in realtà è il nome di un vecchio cinema che era esattamente nella Galleria Meravigli, che è il luogo che ospita il nostro spazio espositivo, ed era uno dei cinema storici della città. Noi siamo arrivati molti anni dopo, facciamo in realtà, ci occupiamo di fotografia principalmente, non di cinema, quindi organizziamo mostre e altre attività sulla fotografia, ma sempre di più il linguaggio della fotografia dialoga anche con gli altri linguaggi artistici e il cinema prima di tutto, e quindi da qui è nata l'idea di provare a nel nostro piccolo far rivivere il Cinema Meravigli con una serie di appuntamenti, di proiezioni tra fotografia e cinema. Allora, un rapporto, dicevi, che si sta sempre più intensificando e anche con risultati notevoli dal punto di vista anche della proposta sì. Rispetto a personaggi dei quali si ignorava quasi tutto. Mi viene in mente per esempio il documentario, il lavoro su Diane Arbus. Certo. E ce ne sono di altri. In questo caso voi proponete un film di diversi anni fa. Sì, esatto, e in realtà questa è la seconda rassegna che facciamo su cinema e fotografia, e abbiamo lavorato su diversi filoni, quindi su fotografi più classici come il film di stasera che parla di uno dei maestri della fotografia del Novecento, che è Cartier-Bresson, e invece altre serate che sono dedicate a visioni più inedite, più anche più sperimentali. Il film di Nelloisi, beh, Nelloisi è un grandissimo regista italiano, forse non così conosciuto come dovrebbe, e questo è un anche suo perché film non del ha avuto 64. Non ha avuto un'ampia produzione. No, questo è vero. Questo è un documentario del 64 su Cartier-Bresson. Cartier-Bresson viene intervistato da Romeo Martinez, che era, è stato il fondatore e il direttore di una rivista di fotografia molto importante francese che si chiama Camera, e durante il film ovviamente il tema è da una parte il modo di lavorare del fotografo di Cartier-Bresson, dall'altra la sua personalità, che esce in modo molto smaccato anche perché si contrappone alla personalità invece dell'intervistatore, di Romeo Martinez, di origini latine, di esuberante, che in qualche modo si contrappone invece a una impostazione di maggiore rigore, di maggiore controllo, di disciplina come quella di Cartier-Bresson. Durante il film devo dire che poi ci sono delle chicche notevoli, come per esempio un cameo di Marai che racconta del suo lavoro di fotografo paragonando, cioè in confronto a Cartier-Bresson. Immagino un film in bianco e nero del 1964. In bianco e nero, sì. Senti, rispetto invece più in generale sulla rassegna e sulla proprio sull'attività vostra cinematografica, ci dai un po' di riferimenti web? I riferimenti web, il nostro sito è formafoto.it, sì, dove si può trovare il programma, le informazioni di tutte le varie serate. La prossima serata è giovedì 13 ottobre, sì, è una serata invece un po' particolare perché è dedicata ai Fotoroman, che è stato un esperimento francese dell'inizio degli anni 90 che riprende un po' la tradizione del fotoromanzo, con quindi il montaggio di immagini, di fotografie fisse, voce fuori campo, storia poliziesca, quindi una storia di mistero, donne misteriose, bellissime, città come ambientazione, insomma il mix è veramente notevole. E sono stati prodotti 13 episodi, una serie che poi è stata trasmessa alla TV francese, noi ne proietteremo due. Valeria, uno ambientato a Barcellona e uno a Parigi. Volevo chiederti anche se avete una continuità e una cadenza fissa. Sì, abbiamo, questo appunto è la seconda rassegna che facciamo, non abbiamo ancora il calendario della prossima, ma ogni 2 o 3 mesi proponiamo un nuovo ciclo. Benissimo. Quindi facciamo circa 3 rassegne all'anno. Lavoriamo ovviamente con dei partner, in questo caso abbiamo coinvolto il Green, che è un gruppo, il gruppo dei redattori iconografici, dei foto editor, che ci ha dato un supporto, e Film Idee, che invece è un magazine di critica cinematografica online. Okay. Che curerà l'ultima serata con una sorpresa per i cinefili. Benissimo, allora Valeria, io ti ringrazio, a risentirci per grazie la prossima. Grazie a voi. Grazie, ciao, a presto. Ciao. Valeria Moreschi, curatrice della rassegna Cinema Meravigli, sull'appuntamento di questa sera Cartier-Bresson al cinema al Forma Meraviglia Milano, giovedì 6 ottobre. E ritroviamo Alberto Valtellina di Lab 80, questa volta per parlare della distribuzione del documentario Giovanni Segantini, Magia della Luce, in uscita in sala oggi giovedì 6 ottobre. Alberto, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Allora, un nuovo lavoro, un documentario, pittura questa volta, raccontaci un po'. Ma è un film che è stato presentato per la prima volta in Italia al Festival di Trento con un grande successo, tra l'altro domani è in uscita a Trento in tenitura, in una sala commerciale ci fa molto piacere, perché vuol dire che riusciamo ad ampliare anche un po' le uscite dei nostri titoli. Sarà anche a Roma, è una buona notizia, perché Roma è sempre Roma sto cercando un posto tranquillo dove mettermi a parlare. Roma è sempre un posto difficile dove per noi distributori un po' più piccoli, e uscirà. Stiamo chiudendo adesso con l'Istituto Svizzero di Roma, uscirà all'interno del Festival Europeo organizzato dall'EUNIC, che è l'European Union National Institute for Culture. Il festival si terrà dal 13 al 18 novembre, quindi usciremo un po' in ritardo a Roma, ma ci fa piacere esserci a Roma, e appunto, come dicevo, non è un luogo facile per i piccoli distributori. Mm-hmm. Il film, tra l'altro, in Svizzera ha avuto 20.000 presenze, che è abbastanza significativo anche per l'Italia, in particolare per un documentario. Mm-hmm. Alberto, che figura era Giovanni Segantini? Giovanni Segantini era un personaggio straordinario, una sorta di pittore anarchico. Ha un percorso particolare, nato ad Arco di Trento, si è spostato a Milano, ha iniziato l'Accademia di Brera, poi ha rifiutato questo tipo di arte, si è innamorato di questa donna con cui è andato a vivere prima in Brianza, quindi nella zona fuori Milano, e poi addirittura sulle montagne dell'Engadina in Svizzera, dove poi è morto, tra l'altro giovanissimo, 41 anni, e dove in Engadina ha realizzato i suoi dipinti di riferimento. Senti, perché è entrato nella storia della pittura? Quali sono le sue caratteristiche tecniche ed estetiche? Ma lui intanto era una figura straordinaria. Il film in particolare, la particolarità del film è che il regista Christian Labart ha lavorato per anni sulla figura di Segantini, e ha utilizzato i suoi diari, che nella versione originale, che sarà quella proposta, sono tra parti dei suoi diari, sono letti e sono raccontati, quindi la sua vita è raccontata attraverso le sue proprie parole, dalla voce di Bruno Ganz. Bruno Ganz per i cinefili è una garanzia di un alto livello. Bruno Ganz, per quelli più giovani forse che non hanno visto i primi film di Wim Wenders, per esempio, è l'angelo che cade nel cielo sopra Berlino, per esempio. E lì già aveva una certa età, insomma. Sì, però si mantiene con un riferimento non troppo in là nel tempo. Comunque ancora adesso la versione italiana, che è recitata dall'attore svizzero Teco Celio, noi distribuiamo sia la versione in italiano recitata dall'attore Teco Celio da una voce femminile, e la stessa cosa distribuiamo anche la versione originale tedesca recitata da Bruno Ganz, con un'altra voce poi femminile, che invece si mantiene, diciamo, mantiene la narrazione e racconta le parti della vita in termini più oggettivi. Quindi questo sviluppo è anche geograficamente, il film segue utilizzando i dipinti di Segantini, i luoghi di Segantini nella contemporaneità, quindi Arco di Trento oggi, Milano oggi, la Brianza oggi, e finalmente l'Engadina con questi panorami che sono raffigurati nei dipinti del maestro. Segantini aveva bisogno di spazio, di aria, e il suo trittico che è visibile al Museo Segantini di St. Moritz ha un respiro straordinario nel film. Una delle cose interessanti è proprio vedere lo sviluppo della sua pittura, dai piccoli dipinti del giovane scapestrato non tecnicamente ma diciamo così idealmente, fino al trittico straordinario che è ripreso nel film, in cui le montagne diventano in qualche modo una l'immagine del bisogno di libertà e di respiro di questa artista straordinaria, che elaborava una pittura sua propria, anche una sua propria tecnica pittorica che non è classificabile, però basta vedere un suo dipinto dal vivo, è straordinario. Ci dai a questo punto, come sempre, i riferimenti web per le informazioni? I riferimenti web, io ti devo una birra, perché tutte le volte me ne dimentico. I riferimenti web per di Lab 80. Basta cercare Lab 80, insomma. Basta cliccare Lab 80 film, lab80.it o lab80.it/distribuzione per entrare nell'area che in qualche modo cerco di portare avanti con le difficoltà del caso, ma anche con le soddisfazioni del caso. Benissimo. Allora, Alberto, un abbraccio e a risentirci presto. Un saluto, buona fortuna, buon lavoro. Ciao, ciao, ciao, ciao. Alberto Valtellina di Lab 80 sulla distribuzione del documentario Giovanni Segantini, Magia della Luce, in uscita in sala da oggi, giovedì 6 ottobre. Cristina Voghera, direttrice della nona edizione di Porto Franco, il cinema invisibile, al Cineteatro Baretti di Torino dall'11 ottobre al 20 dicembre. Cristina, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, benvenuti a tutto il pubblico e grazie per questa diretta. È la prima volta che ci sentiamo e anche la prima volta che parliamo di questa rassegna e di questa realtà, il Cineteatro Baretti. Ci racconti un po' tutto, Cristina? Sì, è la prima volta che siamo ospiti da voi, vi ringrazio per questo appuntamento. Siamo giunti alla nona edizione, quindi è il nono anno che la nostra sala propone questa rassegna che si chiama Porto Franco, il cinema invisibile. Cosa facciamo? Proponiamo al nostro pubblico delle opere filmografiche che sono state un po' penalizzate dalle grandi distribuzioni, quindi andiamo a cercare, a scovare quei film che sono passati un po' inosservati, poco tempo, magari nella nostra città proprio non sono neanche arrivati, e li riproponiamo al pubblico. C'è un grande lavoro di visione preventiva, perché quello che noi vogliamo offrire è un film di qualità, cioè la qualità è sicura, che noi proponiamo al nostro pubblico. Oh, quanti siete a realizzare questa visione e questa scelta poi dei titoli? Allora, innanzitutto siamo tutti volontari, non c'è nessuno di noi che percepisce alcun compenso per tutta questa attività. Siamo un gruppo di 7 persone, molto variegato in termini di età, di estrazione sociale e di impegno, diciamo, di qualsiasi tipo. Lavoriamo costantemente, non abbiamo un attimo di tregua. La nostra rassegna inizia appunto a metà ottobre, in questa occasione partirà l'11, andiamo avanti fino alla fine di maggio, quindi proponiamo ogni anno 30 film, programmandoli a cicli di 10, quindi quello che andiamo a vedere adesso sarà il primo ciclo, a cui seguiranno due cicli futuri che vanno da gennaio a marzo e da marzo a maggio. Ma la programmazione va di 10 film in 10 film, proprio perché questo lavoro di ricerca è laborioso e ci impegna moltissimo, ecco. Senti, i film proposti sono dell'ultima stagione o andate anche più indietro nel tempo? No, andiamo anche a scovare roba molto più vecchia. Tante volte abbiamo dei titoli che sono difficili da ricondurre a un detentore di diritti, quindi ci mettiamo veramente tanto tempo a ritrovarli. Ma addirittura nel nostro storico abbiamo programmato anche materiale molto più vecchio, anche perché abbiamo collaborazioni, una tra queste è con l'Archivio Nazionale della Resistenza, e allora in questa occasione riusciamo a dare film molto vecchi, magari che ora diciamo il pubblico debba rivedere, soprattutto i giovani che adesso fanno difficoltà a trovare queste opere, oppure perché hanno un valore diverso, e quindi con una discussione in sala cerchiamo di riproporlo proprio per ampliare la nostra offerta, ecco. Di quanti titoli si compone la rassegna di quest'anno? sempre 30. Questo primo ciclo saranno 10 film. Partiamo subito con 5 Tequila, che è un film, un road movie messicano, dove ci sono tre allegri vecchietti che, per una promessa fatta ad un loro amico, si mettono in strada per cercare di mantenere questa promessa, e nel contempo ridanno smalto e brio, diciamo, alla loro vita. Quindi è un film divertente sicuramente, ma anche molto toccante e sentimentale, ecco, è particolare come tipo di film. Passato in sala, ma decisamente penalizzato, passato poco e male, con una maturina almeno, è così. Poi passiamo subito a delle opere invece in lingua originale con sottotitoli. Abbiamo un film che si chiama Siamo giovani, siamo forti, che è un film in tedesco che diamo in collaborazione con il Goethe Institute, e parla della notte del fuoco, della notte del 24 agosto del 92 a Rostock, dove un gruppo di giovani neonazisti assediò e diede fiamme ad un edificio dove risiedeva una piccola comunità di richiedenti asilo vietnamiti. Un film molto attuale nonostante sia già datato, ecco. Poi abbiamo anche... Volevo chiederti come è cadenzata la rassegna? Tutti martedì sera, partire dall'11 d'ottobre, sì, alle 21, con una replica il sabato pomeriggio seguente alle ore 18. Okay. La replica l'abbiamo dovuta inserire perché le nostre serate fortunatamente sono quasi sempre tutte esaurite, quindi il pubblico ci chiedeva la possibilità di rivedere questi film, di avere la possibilità di vederli. E quindi siamo stati un po' costretti, diciamo, a questa proiezione, che ci fa molto piacere. Si tratta solo di proiezioni o in alcuni casi ci sono anche incontri con gli autori oppure appassionati? Tutto dove riusciamo cerchiamo di farlo. Dopodiché le risorse sono anche quelle che sono, quindi se si tratta di ospitalità troppo onerose perché i registi sono molto lontani o cose simili, non riusciamo. Però facciamo il possibile comunque di invitare qualcuno. Sicuramente la presentazione del film è sempre fatta da uno di noi, quindi la visione del film è accompagnata e presentata al pubblico, e dopo siamo sempre presenti per parlarne con loro, quindi questa è anche un po' la linfa vitale della nostra programmazione, raccogliere subito le esternazioni del pubblico, che ci permettono poi di dare una linea editoriale anche per il futuro. Sì, sì, sì, sì. Cristina, a questo punto ci lasci tutti i riferimenti web per seguirvi? Assolutamente sì. La nostra sala è a Torino, in via Baretti 4, zona San Salvario. I riferimenti sono www.cineteatrobaretti.it. Aspettiamo tutti i martedì sera alle 21 o il sabato pomeriggio alle... È andata via la linea. Però, insomma, i riferimenti ce li ha dati in tempo. Un abbraccio e a risentirci presto. Questa era Cristina Voghera, direttrice della nona edizione di Porto Franco, il cinema invisibile al Cineteatro Baretti a Torino dall'11 ottobre al 20 dicembre. Abbiamo anche un contributo registrato, perché nella giornata di martedì abbiamo intervistato Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna per parlare della distribuzione del documentario Lumière, la scoperta del cinema, che è uscito in sala in DVD già dallo scorso 3 ottobre lunedì. Ascoltiamo questa registrazione prima di salutarci. Parliamo con Gianluca Farinelli, si tratta di Lumière, un film che è uscito sia in sala che in DVD. Gianluca, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico. Ciao. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Poi siamo molto carichi, gli inventori del cinematografo che tornano in sala, e mi sembra una bella notizia. Sì, sì, sì, sì. I due fratelli Lumière che non solo hanno, ecco, noi credo diamo un po' tutti per scontato che questi due fratelli lionesi il 28 dicembre 1895 hanno inventato il cinema. In realtà, ecco, questo film, che è veramente una scoperta e che mette assieme 114 dei film Lumière, ci mostra che questi due signori non erano solo degli inventori, gli ultimi inventori che inseguivano il cinema e che lo hanno inventato, ma furono anche degli straordinari autori, degli straordinari artisti, che poi per 10 anni produssero 1424 film. In realtà i loro film erano tutti della durata di 50 secondi, ma la cosa fantastica è che per anni si è pensato che questi film fossero abbastanza casuali, che loro mettessero la macchina da presa e poi riprendessero la realtà. In realtà oggi, guardando questi film, ci accorgiamo che loro mettevano in scena la realtà, e quindi è possibile vedere in questo film 114 cortometraggi che per la prima volta raccontano il mondo. Facciamo fatica a immaginare un'epoca, visto che oggi siamo immersi nelle immagini del movimento, facciamo fatica forse a immaginare un'epoca nella quale non c'era la possibilità di riprendere in continuità la realtà. Ecco, questi sono i primi film che raccontano la realtà, che raccontano ai cittadini del mondo com'era il mondo, perché immediatamente Lumière e i loro operatori attraversano il mondo e vanno in 24 paesi diversi, vanno in tutti i continenti, e quindi per la prima volta c'è un'immagine del mondo e per la prima volta tutti possono vederla. Quindi questa non è un'invenzione per i ricchi, non è un'invenzione per i capi di governo, per i grandi militari, per gli artisti, no, questa è un'invenzione per tutti, un'invenzione popolare che immediatamente ha un successo popolare attraverso il mondo. Il film è molto piacevole perché poi ha un bellissimo testo che è stato scritto da Thierry Frémaux, che è il direttore dell'Istituto Lumière di Lione e anche il direttore del Festival di Cannes, e che nella versione italiana, noi siamo sempre per le versioni originali, quindi facciamo sempre il film in versione originale con i sottotitoli, ma questa volta, siccome poi per chi non conosce il francese sarebbe stato inevitabile guardare i sottotitoli e perdersi le immagini, abbiamo chiesto a Valerio Mastandrea di leggere il testo, e quindi la versione italiana è anche supportata dalla voce bellissima di Valerio. Ed è davvero un film, un viaggio nel tempo, un viaggio che ci riporta alla fine dell'Ottocento. Sono delle immagini quindi molto antiche di un altro mondo, in cui si vede tutto il mondo, in cui si vede anche l'Italia, anche Roma, e dove credo possiamo capire tante cose sull'inizio di questa civiltà delle immagini nella quale oggi siamo tutti immersi. Allora Gianluca, un paio di domande. Questi cortometraggi dei Lumière da che durata a che durata vanno più o meno? E poi, visto che hanno girato in tutto il mondo, volevo chiederti se sono riprese relative al quotidiano dei paesi che hanno visitato. Sì, guarda, allora la durata è sempre la stessa, è sempre tra i 40 e i 50 secondi. Okay. Loro non hanno mai montato le loro immagini, quindi è sempre una ripresa, spesso in movimento, perché poi loro hanno inventato tante cose, hanno anche inventato le riprese in movimento, le carrellate, anzi la prima carrellata della storia del cinema fu ripresa a Venezia sul Canal Grande. E questa durata è buffo, perché noi oggi abbiamo un problema con i nostri smartphone, abbiamo spesso un problema di memoria, cioè non dobbiamo fare delle riprese troppo lunghe, e i Lumière facevano queste riprese tutte di 50 secondi perché erano 18 metri di pellicola, loro facevano bobine da 18 metri di pellicola, che a 16 fotogrammi al secondo dà una durata tra i 14 e i 50 secondi. Che cosa riprendevano? Ecco, e questa è la cosa straordinaria, perché la prima ripresa, nessuna arte ha una di nessuna arte possiamo dire qual è il primo brano musicale, qual è la prima pittura, qual è il primo romanzo, qual è la prima scultura. Ecco, del cinema possiamo dirlo: il primo film ripreso dalla macchina da presa del fratello Lumière è l'uscita degli operai dalla loro fabbrica. Quindi il cinema comincia subito raccontando non le avventure dei potenti, ma e neanche mettendo in scena i due artisti, ma riprendendo degli operai, degli uomini e delle donne che escono per la pausa del mezzogiorno. Quindi il cinema è un'arte che da subito usa la parola noi, non la parola io, e forse per questo film è così commovente, perché ci accorgiamo che i Lumière hanno non solo inventato tecnicamente la tecnologia del cinema, ma hanno inventato il DNA di un'arte popolare che ancora oggi tutti noi possiamo amare. Allora Gianluca, da ieri in DVD e in sala c'è un sito internet, immagino quello della Cineteca di Bologna, di riferimento, sì, per saperne di più? Certo, quello è il sito della Cineteca, cinetecadibologna.it, anche il sito del Cinema Ritrovato al Cinema, dove è possibile anche trovare molti approfondimenti sul film. C'è anche un contest, perché lanciamo l'idea che anche oggi si possono fare vedute Lumière, naturalmente devono essere rigorosamente di 50 secondi e devono raccontare un'unica storia. Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna per la distribuzione del documentario Lumière, la scoperta del cinema, in uscita in sala e in DVD dallo scorso 3 ottobre. E con lui chiudiamo l'appuntamento settimanale con Visionari, che torna giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. Sull'home page ascolta la diretta. Le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione le trovate sul sito, sempre home page, sempre sul sito della radio, home page, colonna centrale trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. A giovedì prossimo,